Aquilo é na poesia que eu escrevi para aquele fio que é morto na estação de Via Gras, como se chamava? Caruba. Caruba. Caruba. Escrevi que a poesia aqui é entrar na estação de Via Gras, que praticamente é morto del freio, não? Sì, lui era sempre lì, eh? Allora abbiamo scritto, per un fio morto alla stazione di Via Gras. Tal vedevet cut un zainetto in spalla, pur tas drea su saldos, vunch, scavion, con la bala di soeci, picadenco e la facciassa d'un porcris capadeca. Morta al pa, la madonna d'un ustias, e se trua in sci bene la stazione che di e no, tra un sangue e carità, al sera missin del cude spetà su quel binare per pudenda, in due, sal Cristo. E le visci tanta la passion de finia cade l'ostia, che una mattina di dicembre, giura, all'antrua morgia sa, cut imberto un bigliet del di prima, timbrà per la corsa di quattros sul binare del podempù. Yeah. È già qui la buona serata. È già qui. Però abbiamo qualcosa di più divertente.